Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre, il programma del presidio universitario di Libera Bologna, che va in onda tutti i venerdì sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalle 13 alle 13.30. Ciao, io sono Camilla e sono in studio con Matteo oggi. Ciao a tutti. Ciao, oggi è l'esordio radiofonico di Matteo, quindi diamogli ufficialmente il benvenuto nella nostra squadra. Molto emozionato. Oggi parleremo di Expo 2015, ci occuperemo di due puntate su questo tema. La prima vuole avere un approccio un po' generale, un po' introduttivo sul tema. La prossima invece avrà un approccio più legale, che è un po' il tuo ambito, peraltro, Matte. Sì, però è necessario fare un cenno storico e spiegare un pochettino di cosa si tratta. Esattamente. Cos'è questo Expo? Ci vuoi dare una definizione di Expo? Sì. Allora, la nostra definizione di Expo è stata trovata su un sito altamente specializzato che è Wikipedia. Questa definizione dice: è un'esposizione, una mostra che, qualsiasi sia il suo titolo, ha come fine principale l'educazione del pubblico. Può presentare i mezzi a disposizione dell'uomo per affrontare le necessità della civilizzazione, o dimostrare i progressi raggiunti in uno o più settori dello scibile umano, o mostrare le prospettive per il futuro. Diciamo che questo è il compito che Expo 2015, per quanto riguarda cultura dell'alimentazione, la cultura del cibo, ti pone come fine. Dovrebbe avere, almeno. Dovrebbe avere, esatto. Almeno in teoria, e almeno secondo quanto la BIE, il Bureau International des Expositions, ovvero l'organismo che storicamente si occupa di organizzare e dettare le regole delle esposizioni universali, ha voluto stabilire. Storicamente la prima esposizione universale risale al 1851 e si è tenuta a Londra, e in occasione di questo primo Expo è stato costruito peraltro il famoso Crystal Palace. Forse ai più è però nota l'Exposition Internationale del 1855 tenutasi a Parigi. Si sono poi susseguite nel corso dei secoli diverse esposizioni universali, e le regole che la BIE stabilisce per la programmazione degli Expo sono che le esposizioni debbano avere una frequenza quinquennale, una durata massima di 6 mesi, che i paesi partecipanti costruiscano e si occupino della gestione di un proprio padiglione, e che l'esposizione abbia un tema generale. A proposito delle strutture e delle architetture dell'Expo, mi premeva ricordare una cosa: la maggior parte delle strutture costruite per le esposizioni internazionali è in realtà effimera, la vita di queste strutture termina con il termine della manifestazione, mentre alcune strutture sono destinate a permanere nel tempo. Ricordiamo ad esempio la Fiera di Milano, costruita in occasione dell'Expo del 1906, la Tour Eiffel, così come l'Acquario di Genova o il quartiere Eur di Roma, costruito in occasione dell'Expo del 1942, Expo che però non si è mai verificato per via del secondo conflitto mondiale. Magari diamo anche un po' di numeri. Possiamo dire, per esempio, quando sarà l'Expo. Si terrà dal 1 maggio al 31 ottobre. 184 giorni per la precisione. Una durata esattamente di 6 mesi, come dicevamo poco fa. Brava Camilla. Sono previsti anche dei partecipanti, 130 partecipanti per quanto riguarda i paesi, suppongo, perché 130 persone sarebbe un po' più. Questi sono dati tratti dal sito Expo. Si tratta di paesi, credo, e di alcune organizzazioni. Credo partecipino anche il CERN, l'ONU e l'Unione Europea, se non erro. Quanto sei informata. Poi potremmo dire, per esempio, quanti metri quadrati si avrà il sito espositivo, e sono ben un milione di metri quadrati. Il sito espositivo, peraltro, ho letto, sorgerà a nord-ovest di Milano, ed è un progetto veramente titanico, ispirato al modello tradizionale di città romana. Il grande spazio espositivo sarà attraversato da un decumano e da un cardo che si incroceranno nel mezzo in una magnifica piazza Italia. Ma adesso ascoltiamo un po' di musica scelta dalla nostra DJ Camilla. Cosa ci fai ascoltare, Matte? Cosa ci fai ascoltare tu? Il titolo è Come reagire al presente di un gruppo notissimo, Fast Animals and Slow Kids. We'll be right back. Ma eccoci tornati in studio e cerchiamo adesso di capire un po' di cosa tratta questo Expo 2015. Beh, il tema secondo il sito di Expo è abbastanza chiaro, anche dal titolo potremmo si intuisce, sì, facilmente sì. Dal titolo, che è Nutrire il pianeta, energia per la vita. Expo tramite questa esposizione vuole dare un contributo al dibattito, all'educazione sull'alimentazione, sul cibo e sulle risorse a livello planetario, e questo è un po' il fine che si pone, ma diciamo che non tutti hanno ben capito quale sia il tema. Non tutti hanno capito quale sia il tema, non sembra essere un evento pubblicitario, non sembra essere un evento commerciale, pare che secondo i migliori e più ottimistici propositi degli organizzatori questo debba essere un momento di confronto e di dibattito su temi di interesse globale, ma diciamo con ironia uno dei nostri comici preferiti e secondo me più pungenti si è posto questa medesima domanda. Crozza, in una puntata di Crozza nel Paese delle Meraviglie di maggio, si è appunto domandato che cos'è Expo, e questo è il risultato, questa è la risposta. Sentiamo Crozza. Allora, siamo d'accordo, facciamo l'Expo. Sì, ma dobbiamo trovare un tema, padrino. C'è un tema. Fare palazzi può andare come tema, mi sembra buono. No, padrino, è buono per noi, ma per la gente... Giusto. Ci vorrebbe un'idea. Cos'è che ha detto Miss Italia? Nutrire il pianeta, padrino. Betta, sai, nutrire un pianeta mi piace. Non vuol dire una minchia. Ma alla gente ci piacciono ste cose. Grazie, Tom. E questa era Crozza che dava la sua personalissima opinione sul tema dell'Expo. E sempre in tema di tema dell'Expo, perdono il gioco di parole, abbiamo trovato su Internazionale un articolo di una giornalista che chiarisce un po' cos'è secondo lei e cosa dovrebbe essere Expo 2015. Si tratta di un articolo di Anna Maria Testa del 21 maggio 2014, e mi piaceva leggervi alcune delle belle parole di questa giornalista. Per esempio, dice Anna Maria Testa, nutrire significa rafforzare le pratiche culturali e alimentari virtuose, i nuovi orientamenti al biologico, la consapevolezza del legame tra cibo e salute. Significa rispettare la biodiversità e il suolo, gli animali, anche quelli d'allevamento, le diverse tradizioni alimentari. Significa risanare le terre inquinate, le terre di mafia, le terre desertificate. Significa sfamare gli indigeni del terzo mondo e gli emarginati del primo, scolari e anziani, in modo sano. Significa mettere a frutto il cibo, oggi sprecato, le competenze agricole tradizionali, l'energia dei nuovi giovani agricoltori. Significa educare alla sostenibilità e alla convivenza, all'interconnessione e alla complessità, al pensiero critico e alla lettura. Significa accogliere turisti, altre tradizioni e culture. Significa condividere conoscenze, competenze, risorse e buone pratiche. Poi, parlando di altre curiosità riguardo l'Expo, avrete visto il logo o la mascotte? Per quanto riguarda il logo, credo sia stato scelto tramite un concorso bandito dagli organizzatori dell'Expo e indirizzato agli studenti di architettura, design, arte e moda. So che sono stati selezionati diversi progetti, due sono poi andati in finale e quello effettivamente vincitore è risultato essere poi il logo che vediamo un po' dappertutto, che è la scritta Expo sovrapposta all'anno 2015 con colori molto sgargianti, eccetera, eccetera. Un'altra curiosità riguarda la mascotte non che piace a tutti, abbiamo scoperto. Io la trovo veramente imbarazzante. No, non è così brutta. Si chiama Foodie ed è sul modello dei quadri Arcimboldo, è stata disegnata da Disney Italia. Una cosa che ho scoperto poco fa è che i vari frutti hanno dei nomi. Sì, sono personaggi. Si tratta fondamentalmente di un grosso faccione costituito da diversi ortaggi e frutti. E prima di parlare di cose un po' più interessanti e stimolanti, mandiamo un'altra canzone, ovviamente, scelta da Camilla. Il pezzo che ascoltiamo adesso è tratto dall'ultimo album di LJ e si intitola Every Other Freckle. I want to share your mouthful. I want to do all the things your lungs do so well. To you, like a cat bats into a beamer. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. Ed eccoci tornati e, come promesso, parleremo un po' delle tappe d'avvicinamento ad Expo 2015, a cominciare dall'installazione che si trova al Castello Sforzesco, a Milano ovviamente, che tenta di accompagnare il pubblico lungo il percorso delle esposizioni. Questo luogo, questa installazione è aperta per il pubblico da maggio 2014 e non è l'unica tappa d'accompagnamento ad Expo 2015. Che cos'altro è stato organizzato? Beh, una cosa un po' più seria, un po' più utile per chi vuole partecipare alla Camera di Commercio di Milano dal 2010, si è costituito un tavolo tematico Expo 2015, questo è il titolo, per far sì che si possa coinvolgere il sistema economico imprenditoriale, le start-up, che si possa dare un'opportunità di visibilità ai giovani e alle imprenditorie che comunque vogliono partecipare ad Expo 2015. Questi tavoli tematici sono appunto divisi per genere e tramite questi appunto i giovani non solo possono avere un'opportunità di partecipare ad Expo 2015. Ora potremmo anche fare una piccola introduzione alla prossima puntata, che sicuramente è più interessante, più utile ai nostri ascoltatori. Sperando che questa lo sia stata almeno un pochino. Per esempio potremmo parlare degli scandali di cui si è occupato anche il giudice Cantone. Delle accuse, sì. E dei processi che sono stati avviati. Sì. Parlando di questo, si potrebbe introdurre dicendo che è stato firmato un protocollo di intesa in cui si andrà a leggere sul sito sempre expo2015.org e si può notare l'impegno preso dai firmatari, questo impegno che prevede una lotta alla corruzione, una lotta all'imprenditoria mafiosa, che con tutto questo giro di denaro sicuramente si è fatta sotto. Firmatari, credo, di questo protocollo d'intesa sono i partecipanti, o meglio i componenti di Expo 2015 SPA, ovvero il governo italiano, la regione Lombardia, il comune e la provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano, correggimi se sbaglio. No, giustissimo. Quindi il paradosso è che, nonostante esista una carta con la quale gli organizzatori di Expo si impegnano a tutelare la legalità e la trasparenza degli appalti e di tutte le attività economiche che riguardano l'esposizione, siano però scattate denunce, avviati processi e siano state dimostrate molte infiltrazioni anche di organizzazioni mafiose in questo contesto. Adesso il momento dei saluti. Vi aspettiamo alla prossima puntata e vi lasciamo alla rubrica Buffier. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Eccoci tornati in studio con la nostra meravigliosa rubrica Buffier. Siamo Eleonora e Stefano. E stasera, Ste, di cos'è che parliamo? Parliamo di un argomento, di un campo che non abbiamo mai trattato prima, ossia un campo scientifico. Perché? Cioè, perché ne abbiamo mai parlato? Perché siamo delle capre. No, io sono una capra e tutti quelli del gruppo sono capre, meno Stefano, che fa una materia scientifica. Vabbè, sì, però non è esattamente il mio campo. Ma è una capra anche lui, quindi... Beh, allora, dicevamo, sì? Oggi parliamo comunque sia di una cosa che è avvenuta questa notte, ossia la prima fase della missione Rosetta. Cos'è questa missione, Ste? Io non so nulla. Rosetta è una missione spaziale sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europa e lanciata nel 2004. E l'obiettivo della missione è lo studio della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Certo, capito tutto, chiaro. Gli obiettivi della missione sono fondamentalmente due. L'obiettivo principale è studiare la cometa 67P, questa che abbiamo appena detto, che aveva lo scopo di orbitare intorno alla cometa da agosto 2014 a dicembre 2015. Ma lo scopo precedente era fondamentalmente quello di prelevare campioni e riportarli a terra, sostanzialmente, con uno scopo ben preciso che adesso vi spiegherò, ossia da questi campioni che si prelevano scoprire delle cose sull'origine della Terra. Mm-hmm. Perché secondo la teoria del Big Bang, tutto quello che è stato generato dal Big Bang poi è la stessa materia che c'è nel cosmo, e loro pensano tramite la composizione di risalire a come è stata creata la Terra. Io ci credo, io credo fermamente in tutto quello che dici, perché non capisco, quindi bene. Comunque, bello. La sonda fu battezzata appunto Rosetta dal nome della stella di Rosetta, appunto. Questo... Non dal panino? No, non dal panino. Sai cos'è la stella di Rosetta almeno? Non sono così ignorante, Stefano, smettila. Spiega allora, cos'è la stella? Allora, quella cosa che ha trovato Napoleone tra gli egizi, alle piramidi, quando ha conquistato l'Egitto, che era poi la cosa, quel bagaglio di pietra che c'è a quello Londra. Quello per tradurre. Lo vedi nel museo, per tradurre quei geroglifici carini, quei disegnini simpatici che fanno gli egizi. Sono esatto. Stata brava? Sì, esatto. Appunto, però... in questo caso è la stessa missione. Questa sonda Rosetta deve fare più o meno la stessa cosa. riuscire a essere il punto chiave per tradurre la... per scoprire come la Terra sia stata generata sostanzialmente. È partita nel 2004 e praticamente la cosa affascinante è che sono riusciti a far atterrare questa sonda che si trova su una cometa a 800 milioni di anni luce di distanza, no, 800 milioni di chilometri di distanza. Non lo sai neanche te, ste, vedi che signora. No, sono 800 milioni di chilometri di distanza e quindi fondamentalmente non è che il comando arriva immediatamente, devono lanciare dei segnali che nello spazio arrivano dopo un tot di ore. E con dei calcoli matematici complessissimi sono riusciti ieri a farlo atterrare. Ok, sono soddisfatta di questa spiegazione, tutto sommato, devo dire, bravo. Ma in realtà io volevo sapere cosa dice il TG4 di questa storia. Ah, il TG4 l'ha butta su una cosa molto poco romantica. Adesso ve la mandiamo. E poi vi mandiamo la canzone e quindi con questo servizio del TG4 vi salutiamo. Ciao! Ciao a tutti! Se c'è un corpo celeste che ci affascina, come e forse anche più della Luna, questo è una cometa, l'astro con la coda luminosa, visibile anche di giorno. Uno passò sopra la natività, uno si è visto con sorpresa e stupore giusto l'anno scorso a novembre. Non lo sapeva quasi nessuno, ma è dal 2004 che l'ente spaziale europeo lavora per rovinarci questa immagine. 10 anni fa è stata lanciata la sonda Rosetta e dopo un lunghissimo viaggio solitario adesso è arrivata alla cometa 67P a più di 800 milioni di chilometri dal Sole. Ecco le immagini nude e crude che ci manda un grosso sasso polveroso. Su questo sasso fra poche ore scenderà un robot, farà un buco nella superficie e fa quasi male sapere che il trapano è stato costruito in Italia. Un sasso e niente più, nemmeno il mistero terribile e malefico dell'asteroide del film Armageddon. Gli scienziati sono quasi gli unici ad eccitarsi. La missione Rosetta, spiegano, ci svelerà segreti sull'origine della vita. Probabilmente la vita è arrivata sulla Terra proprio sulla coda di una cometa. Una missione costata finora più di 100 milioni di euro, francamente troppi anche per recuperare un reperto archeologico dell'universo. Listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of the song, a buzzing in my head like a bomb dong. Twins are checked into the boogie like one big flow, but don't about the soul one habit club. I sing my song and I'm a rocker, I'm burning up with a Buddha's fever. Beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Twins are checked into the boogie like trusted to the boogie line. Sweet sand trusted to the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song song buzzing in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song song buzzing in my head, my head like a bomb down. We're standing alive with a King Kong Fire. Through the King Kong Drive on a Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat, beat, beat of a song song buzzing in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, beat, beat of a song song buzzing in my head, head, head like a bomb down. Twitching to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with a Buddha's fever. To the beat, a beat of a song song buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song song buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song song a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song song a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong Fire, King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat.